Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Anche oggi insieme con l'Adico per la nostra rubrica di diritti e rovesci, un saluto a Carlo Garofolini, direttore dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, siamo in un periodo, ahimè, triste per una serie di problemi che ben conosciamo, la crisi economica che si fa sentire, e ci sono dei dati dell'Istat che sono preoccupanti. Sì, dei dati che sono stati pubblicati dall'Istat qualche giorno fa, come sostanzialmente viene ribadito che questa crisi sostanzialmente sta cambiando veramente anche le nostre abitudini a tavola. Ma la stanno cambiando non solo per quanto riguarda un calo di carne e pesce, come ormai sappiamo molte persone comprano e consumano sempre meno, ma addirittura su quelle che sono proprio anche gli alimentari che le persone mangiano, dove sostanzialmente dicono che 8 persone su 10 mangiano addirittura cibi che scadono. Quindi ecco, stiamo arrivando a un livello dove sostanzialmente non si butta via più niente, e anche se il cibo scade molti dichiarano proprio di mangiarlo. Beh, sappiamo, ci sono alcuni cibi dove c'è scritto consumare preferibilmente entro il, allora lì magari si può anche andare oltre la data di scadenza senza incorrere in gravi intossicazioni o cose di questo genere. Però è anche vero che ci sono molte persone che vanno proprio a cercare il prodotto che è prossimo alla scadenza per poter risparmiare un po' sull'acquisto del cibo. Allora, prima volevo dare un dato, poi sì, rispondo anche a questa domanda, Francesco. Innanzitutto, questo fenomeno purtroppo è rivolto alle famiglie meno abbienti. Uh-huh. È un effetto che 6.200.000 persone nel 2013 hanno ridotto la capacità di spesa. Poi dall'altro, come dici te, purtroppo è così, ci sono questi ipermercati, supermercati, a discount, insomma c'è questa abitudine di promuovere quei prodotti che sono prossimi alla scadenza e quindi fanno veramente risparmiare anche il 50% rispetto ai prezzi proposti negli scaffali. È anche vero che la data da consumarsi entro o preferibilmente ha due significati diversi, come dice la parola, però dobbiamo anche ricordare ai consumatori che poi anche alla base di tutto ci sta la primo, la conservazione del cibo, perché se il cibo viene conservato in un frigorifero sigillato rispetto a un prodotto che viene conservato magari in certi periodi, come magari non quest'estate, ma dovrebbe essere un'estate più normale, magari può subire delle alterazioni diverse per effetto della temperatura, quindi anche un degrado, ma è anche vero che bisogna ricordare ai consumatori che la data di scadenza viene riferita anche a un prodotto conservato non solo nelle condizioni ottimali ma anche integralmente, quindi anche per esempio una crema solare come con uno yogurt, come un cartone di latte o come un formaggio, nel momento che una confezione viene aperta, quelle che sono le date di riferimento certamente poi non sono più quelle della scadenza proposta, quindi attenzione anche quando si devono acquistare questi prodotti. L'attenzione è d'obbligo, però insomma la rilevazione dell'Istat ci dice che 8 italiani su 10, come dicevi tu, mangiano cibi scaduti pur di risparmiare, quindi cercare di accaparrare le cose per cercare di tirare avanti la carretta. Sì, ma poi si mangia anche meno frutta e verdura, perché soprattutto anche a frutta e verdura, se il consiglio è quello di cercare di comprare la frutta e verdura di stagione per poter risparmiare, è anche vero che comunque la frutta e la verdura hanno raggiunto anche dei prezzi alle stelle incredibili. Se noi da una parte assistiamo alle proteste dei coltivatori perché vendono le albicocche e prendono solo nei mercati all'ingrosso a 20 centesimi al chilo, poi non capiamo perché negli scaffali dobbiamo pagare 3-4 euro al chilo. Quindi ci sono anche dei fenomeni speculativi che comunque devono veramente essere verificati, perché poi bisogna anche sostanzialmente renderci conto che anche la frutta sta diventando un costo che veramente per una famiglia da 4, da 5 persone incide parecchio a tavola, soprattutto anche in questo periodo abbiamo notato noi come Adico, in cui magari le scuole sono chiuse e le persone sono in ferie e si trovano anche per chi ha dei figli in 4-5 persone a dover mangiare pranzo e cena, veramente hanno dei costi che lievitano tantissimo rispetto a quelli che sono dei costi di ordinaria gestione durante l'anno. Però è anche preoccupante come poi questi cibi scaduti vengono dati anche agli adolescenti e a dei ragazzi rispetto che anche agli adulti, che magari possono sortire un effetto diverso anche in termini proprio di salute, che insomma bisogna stare un pochino più attenti e saper valutare, ecco. Ecco, lanciamo quindi questo allarme, occhio a quello che mangiamo. Mi rendo conto che comunque in questo tempo ci sono anche tante persone che fanno la cosiddetta caccia all'offerta per cercare insomma arrivare a fine mese, quindi si va a prendere un prodotto in un supermercato piuttosto che in un altro e si fanno più acquisti proprio focalizzati al risparmio. Questo può essere anche un modo per riuscire ad ottenere il cibo o comunque buono risparmiando sul totale. Io ringrazio quindi l'Adico per quest'altro appuntamento, ci ritroveremo anche la prossima settimana, grazie a Carlo Garofolini per essere stato con noi. Io ringrazio te Francesco e auguro una buona settimana a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.